auguri di un felice Natale e di un buon anno nuovo da parte di Massimiliano Allegri. Tanti auguri, buon Natale a tutti i tifosi giallorossi. Buon Natale, buon anno, spero che le cose vadano sempre meglio per voi e per le vostre famiglie. Con il cuore, buone feste. Faccio gli auguri a tutti i tifosi, a tutte quelle persone che speriamo che un anno fantastico per tutti e forza Udinese. Tutti convocati. E allora ve li facciamo anche noi gli auguri di buon Natale oggi 25 dicembre, buon Natale da tutti i convocati, anche se noi siamo qui e vi abbiamo convocato perché vogliamo parlare di un tema che è molto di attualità, anche se non è un tema natalizio, è un tema, ci rendiamo conto, anche un po' difficile, però oggi, siccome è Natale, vogliamo essere buoni, non lo vogliamo affrontare da tifosi, ma vogliamo davvero cercare di capire che cosa nei prossimi mesi può succedere per migliorare il funzionamento di quella macchina infernale che è la giustizia sportiva. E allora lo facciamo, ne parliamo oggi. 800 24 00 24 349 2386 666 e poi chiocciola tutti convocati, questi sono i contatti per interagire con tutti i convocati. Un saluto da Giovanni Capuano e saluto Gianluca Ferraris, collega di Panorama, esperto della vicenda di calcio scommesse e di tutto ciò che attiene anche alla giustizia sportiva. Ciao Gianluca. Buongiorno a voi. Noi faremo il punto della situazione anche tra i tanti filoni delle inchieste che ancora ci sono nella vicenda del calcio scommesse e in tanti in queste settimane, dopo ad esempio la sentenza che ha penalizzato il Napoli, ci avete chiesto che cosa è di Mauri, che cosa è dei giocatori di Sampdoria e Genova, che cosa accadrà nei prossimi mesi, e noi cercheremo di mettere il punto. Però poi convocheremo altri esperti, altri avvocati, altre persone che lavorano dentro la Federcalcio per cercare di capire come questo meccanismo della giustizia sportiva può essere cambiato. Però partiamo dalla strettissima attualità, perché si è chiuso il primo grado, Gianluca, del processo che riguarda il Napoli, però la vicenda del calcio scommesse non finisce qui. In realtà Palazzi nelle prossime settimane dovrà ancora fare il giro d'Italia per andare a raccogliere delle carte, dovrà studiarle, dovrà pensare di fare evidentemente ed eventualmente dei deferimenti. Ad esempio mi viene in mente che deve arrivare la seconda tranche da Bari ancora, quella che in teoria può riguardare ancora Conte, potrebbe riguardare Ranocchia. A che punto siamo? Esattamente, quello è il filone probabilmente in fase meno avanzata a quanto ci risulta per quanto riguarda Palazzi, ma è anche quello che promette le rivelazioni più scottanti, anche perché sul fronte inchiesta di Cremona l'unico capitolo che rimane aperto dopo l'archiviazione relativa a Genoa-Samp è quello su Lazio-Genoa, il famoso 4-2 del 2011, per il quale sono indagati ancora Mauri e Milanetto a livello penale. Oh, quindi abbiamo messo il primo punto fermo. Tu hai citato Genoa-Samp perché tantissimi ce l'hanno chiesto. Che fine ha fatto il Genoa? Che fine ha fatto la Sampdoria? Hanno fatto la fine che in realtà i magistrati si sono accorti che non c'era nulla, e quindi credo che il nulla verrà trasmesso a Palazzi o è già stato trasmesso e Palazzi dovrebbe trarne le debite conseguenze. Anche se lo dico, non è automatico che se non c'è nulla dal punto di vista penale per una procura non ci sia nulla nemmeno dal punto di vista sportivo, però ho l'impressione che su Genoa-Samp il risultato alla fine sarà zero, Gianluca. Assolutamente, qui tutto era partito da un'ipotesi accusatoria del PM di Cremona Di Martino, che aveva insistito molto su questo punto, in particolare nell'interrogatorio con Omar Milanetto, che all'epoca era il vice capitano del Genoa ed è indagato anche per altre vicende di Cremona, ma i successivi riscontri non hanno poi portato a nulla. C'è stato un ulteriore stralcio del procedimento che ha portato all'apertura e poi alla chiusura in tempi abbastanza rapidi di un fascicolo a Genova che vedeva indagati tra gli altri anche altri giocatori, quindi Palacio, Criscito, Sculli e altri ancora della Sampdoria, ma è stato archiviato in fretta perché non ha portato a nessuna rilevanza penale. Queste carte mi risulta siano già state trasmesse a Palazzi, che probabilmente daranno luogo a procedere, anche perché manca la prova anche a livello di illecito sportivo, cioè il tentativo. Sì, manca anche qualunque sospetto, io credo a questo punto. Abbiamo visto quelle foto, però i magistrati le hanno argomentate, le foto ad esempio che sono costate a Mimmo Criscito la convocazione agli europei in Polonia ed Ucraina, quindi da questo punto di vista penso Palazzi debba fare soltanto copia e incolla, fotocopia di quello che gli è stato scritto dalla procura. Non è stato trovato nessun riscontro e tutte le testimonianze coincidono, salvo quella di un ultras del Genoa, che però non è stato giudicato attendibile per tutta un'altra serie di motivi. E quindi con questo dovrebbe chiudersi il capitolo che riguarda la procura di Genova. Dicevamo, manca la seconda tranche di Bari, qui si parla di Antonio Conte e c'è anche il rischio, qualcuno l'ha scritto nelle scorse settimane, di una nuova denuncia, di una nuova deferimento per omessa denuncia. Le partite sono quelle con il Treviso, quelle con la Salernitana, andiamo oramai indietro di tre stagioni, poi c'è la posizione di Ranocchia, c'è la sensazione evidente, quella era una situazione marcia in cui si vendevano partite, si compravano partite, evidentemente qualcosa arriverà a Palazzi e di quello che arriverà sicuramente qualcosa verrà trasmesso in un processo sportivo, però penso stiamo parlando dell'estate. Sì, non prima, anche perché comunque le notifiche di fine indagine non sono ancora neppure arrivate tutte, perché si parla di una quarantina complessiva di indagati, tra cui pare, siamo sempre a livello di indiscrezioni investigative, l'intera rosa del Bari di quella stagione. Quindi si tratta di un meccanismo complesso che anche Palazzi farà fatica, credo, a decifrare in tempo breve. Sì, in una situazione in cui credo anche eventualmente il proscioglimento da parte della procura invece potrebbe aprire un discorso a livello di giustizia sportiva una volta arrivate le carte, perché qui potrebbe davvero scattare eventualmente l'omessa denuncia, che per la giustizia penale di fatto non esiste, ma per la giustizia sportiva abbiamo visto può avere un peso anche in sede di squalifica. Certamente, poi si può aprire anche un capitolo per quanto riguarda probabilmente la responsabilità oggettiva, visto che l'ipotesi accusatoria parla di accordi macro presi all'interno dello spogliatoio e quindi con sì, una le certa famose rilevanza. Scatole di cartone con dentro banconote frutto della cessione del risultato delle partite. Proviamo a sbilanciarci. Si è scritto anche in questo caso Antonio Conte non poteva non sapere che tutto lo spogliatoio vendeva le partite. Io ho l'impressione che quanto accaduto quest'estate con lo sgretolamento via via della credibilità di Masello prima, di Carobbio poi, la caduta del teorema Mastronunzio renderà probabilmente più difficile anche un deferimento per omessa denuncia, un secondo deferimento per omessa denuncia. Sono d'accordo, anche perché riguardo alla stagione in cui allenò Conte si parla soltanto di due partite, erano due partite di fine stagione e conosciamo benissimo le dinamiche che regolano questi purtroppo incontri spesso. Credo che sarà molto difficile, ammesso e non concesso che ci sia. Io sono relativamente innocentista su Conte anche per quanto riguarda le vicende precedenti, sarà davvero difficile dimostrarlo, mentre credo che sarà meno difficile, anche perché c'è già, diciamo, l'appoggio di alcune testimonianze importanti, dimostrare il coinvolgimento di molti giocatori della Rosa del Bari. Sì, non c'è dubbio, e anche di nomi importanti in questo momento. Il primo che mi viene in mente è quello di Ranocchia, difensore centrale dell'Inter nel giro della nazionale. È vero che poi si racconta che lui non ha preso i soldi, li ha regalati al factotum, però è anche vero che è una posizione delicata che credo che in estate andrà analizzata. Sì, dal punto di vista dell'omessa denuncia, poi forse questa è un'altra delle cose di cui parleremo, c'è anche una zona grigia proprio che è difficile sondare alcune volte, ci troviamo esattamente in questo terreno. Certo, quando si tira in ballo l'intera squadra e non, come accade di solito, 4-5 giocatori, magari gli esponenti più in vista o quelli più autorevoli nello spogliatoio, diventa molto più difficile muoversi in questo terreno. Sì, anche se poi c'è il precedente di, ad esempio, Siena-Novara, Siena-Albino-Leffe, dove nella ricostruzione dell'accusa con le parole di Carobbio gli accordi venivano presi e poi condivisi a livello di spogliatoio, eppure non tutti erano stati deferiti e c'era stata comunque una graduazione anche nella ricostruzione della Procura Federale delle diverse responsabilità, al di là di quella che poi è stata la vicenda processuale. Assolutamente, qui poi c'erano anche molte testimonianze discordanti già in partenza. Per quanto risulta a me dalle indagini di Bari, invece, più si indaga, più si interroga, più i nodi stanno venendo al pettine e stanno convogliando in un'unica direzione. Anche chi inizialmente era reticente dinanzi al pentimento o alla collaborazione, chiamiamola come vogliamo, di alcuni compagni dello spogliatoio, sta cambiando versione. Sì, alla caduta del muro di omertà. E poi c'è la posizione di Mauri, c'è la posizione della Lazio. Nelle scorse settimane se ne è parlato molto, soprattutto settimana scorsa, dopo la sentenza che ha penalizzato il Napoli, perché in tanti si sono chiesti perché Mauri, che ha fatto 7 giorni di carcere, se non sbaglio, è ancora in grado e libero di giocare a calcio in Serie A, e tanti altri sono stati fermati anche con situazioni processuali a livello di inchiesta molto più leggere. Cioè, quando arriva il processo per la Lazio? Allora, proviamo a fare il punto. Sì, questo è uno dei punti più controversi, anche perché ricordiamo che proprio un mese fa Cristian Bertani, attaccante del Novara, è stato squalificato per altri faldoni d'inchiesta relativi comunque al procedimento di Cremona. E quando Bertani venne arrestato lo scorso anno, il suo compagno di cella era Stefano Mauri, che invece sta tuttora giocando e sta giocando anche una delle migliori stagioni della sua carriera. Credo che servirà ancora qualche mese. L'intenzione di Palazzi è quella di accelerare il più possibile, anche perché ha mal digerito le accuse, comunque fondate, che ci sono state anche da parte partenopea, di condizionare in qualche modo il campionato in corso con questo comportamento. Purtroppo l'autonomia giudiziaria e il fatto di poter operare soltanto quando vengono ricevuti i faldoni dalle altre procure, che si muovono con le logiche e con i tempi del diritto penale, non di quello sportivo. Sì, certamente non bruceranno un'inchiesta per fare un favore alla Federcalcio. Esattamente. Quindi significa che le carte che riguardano la Lazio, evidentemente, secondo le procure che se ne stanno interessando, non sono ancora carte che hanno dato un responso e che quindi possono essere liberate, possono essere trasmesse alla procura federale, a Palazzi, e quindi Palazzi non ha ancora fisicamente in mano gli strumenti per decidere se fare o meno un deferimento, detto che nelle ultime settimane si è anche scritto che probabilmente Mauri sta dando delle spiegazioni anche convincenti. È possibile. Non dimentichiamo comunque che a Cremona l'inchiesta è ancora in corso e ci sono alcuni dentellati, un paio di questi riguardano proprio Stefano Mauri, che devono essere ancora approfonditi nella debita misura. E quindi io credo che correttamente la spiegazione sia questa, cioè dobbiamo metterci in testa che la Procura federale in autonomia non fa nulla, sta semplicemente ereditando dei faldoni d'inchiesta e li eredita nel momento in cui questi faldoni sono disponibili, non un minuto prima, ci si augura non un minuto dopo, e io credo che probabilmente anche per Mauri andremo all'estate, perché anche in quel caso è tanto materiale poi nel momento in cui arriverà, e quindi con buona pace dei tifosi del Napoli e di tutte le altre che lottano con la Lazio, ad esempio per un posto in Champions League, io credo che eventuali provvedimenti sulla Lazio e su Mauri saranno poi posticipati alla prossima stagione. Certo, anche in questo caso sarà divertente e interessante vedere a che punto dell'estate, perché poi come sappiamo fino a un certo punto le sentenze possono essere afflittive rispetto alla stagione precedente, e successivamente invece le eventuali penalizzazioni vanno a pesare su quella successiva, quindi anche questo sarà interessante dal punto di vista della dinamica della classifica. Certo, è innegabile che comunque da queste indagini la classifica verrà condizionata e non in modo equo e lineare per tutti. Non c'è dubbio. Per chiudere invece c'è tutto l'aspetto internazionale. Qualche giorno fa qualche riga è uscita ad esempio su un'operazione che riguarda un finanziere, Proto, poi c'è tutto l'aspetto che tu hai anche seguito in prima persona con Singapore, perché non dimentichiamoci che stiamo parlando comunque di un fenomeno transnazionale. Da questo punto di vista l'impressione è che arriveranno altri filoni, arriveranno altre carte, arriveranno altre notizie, è un pozzo quasi senza fondo. Sì, è possibile. Lo stesso Di Martino, procuratore capo di Cremona, ha annunciato che il lavoro dovrà essere più veloce, e a un certo punto bisognerà arrivare a mettere la parola fine, anche se molti aspetti di questa inchiesta sono ancora inesplorati, in particolare tutto quello che riguarda la pista dei soldi. A Cremona ormai, dal punto di vista dell'approfondimento penale, non interessano più tanto i singoli nomi dei calciatori, che appassionano magari più noi, quanto ricostruire quale fosse il meccanismo che portava i soldi a muoversi velocemente sui circuiti offshore, da qui arrivare in Italia per comprare le partite e poi per essere successivamente riscossi. Da questo punto di vista ci sono, a me risulta, almeno 4 rogatorie aperte nei confronti dell'Austria, della Svizzera e di alcuni paesi asiatici, non solo Singapore, che porteranno probabilmente già nelle prossime settimane a una svolta importante su questo fronte, probabilmente anche con ulteriori arresti. Questo è un aspetto importante, perché abbiamo detto forse interessa meno la pancia dei tifosi, è più un aspetto, esatto, tecnico, però deve essere chiaro che se noi speriamo che nei prossimi anni il fenomeno del calcio scommesse sia, non dico sradicato, che è pressoché impossibile, essendo così ampio, transnazionale, ma diciamo quantomeno limitato nell'impatto poi sul calcio e sugli eventi sportivi, noi lo possiamo fare solo sperando che vengano recisi questi collegamenti, questa facilità di trasferimento anche di di somme di denaro che sono ingenti, perché credo esista una stima che dice che il calcio scommesse illegale muove in un anno qualcosa come 30 miliardi di dollari. Stiamo parlando di cifre che sono assolutamente appetibili per qualunque organizzazione criminale. Esatto, e probabilmente sono anche stimate per difetto. Allora, questo era il punto della situazione, su che cosa è successo, cosa sta succedendo e cosa succederà nei prossimi mesi. Adesso ci fermiamo per il traffico. Quando rientriamo, proviamo a capire la nostra giustizia sportiva a che punto è e come può cambiare, perché ad esempio non accada più come negli ultimi 6 mesi che sentenze di primo grado vengono poi stravolte nei gradi successivi. Tutti convocati. E siamo di nuovo insieme perché, come annunciato prima del traffico, adesso vogliamo analizzare quelli che sono i meccanismi oggi della giustizia sportiva, meccanismi che hanno prodotto anche delle sentenze contraddittorie, che in tanti stanno scrivendo in queste settimane hanno necessità di essere riformati, qualcuno addirittura si sposta oltre, si spinge oltre, dice che c'è la necessità di cancellare ad esempio alcuni istituti. Io non la penso così, però ci sono degli esperti che ne possono parlare con noi. E allora saluto intanto Marco Bellinazzo, collega del Sole 24 Ore. Buon pomeriggio Marco. Ciao, buon pomeriggio. E poi l'avvocato Antonio De Renzis, che tutti conoscete come legale di Antonio Conte, che ha seguito Conte nelle vicende di quest'estate e che ha una sua idea su come possa essere riscritta la giustizia sportiva anche senza dover aspettare dei mesi o degli anni. Avvocato, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a tutti gli ospiti, a voi, buon pomeriggio agli ascoltatori. Allora, da dove vogliamo partire? Perché di carne al fuoco ce n'è tanta, poi nel prosieguo della puntata convocheremo anche altri esperti. Secondo me si può partire dall'istituto della responsabilità oggettiva per cercare di sgomberare il campo da quello che forse è l'equivoco maggiore. Qualcuno ha scritto che i club ad esempio la vogliono cancellare interamente perché è un istituto che esiste soltanto nell'ordinamento sportivo. Io non condivido questa posizione, secondo me non è vera, e anzi chi dice e chi sostiene queste tesi probabilmente finisce col danneggiare anche quella che può essere la spinta riformatrice di un istituto che può essere rivisto. Marco Bellinazzo, tu come la vedi? Beh, innanzitutto non è vero che non esiste la responsabilità oggettiva al di fuori della struttura sportiva, dell'ordinamento sportivo. C'è una norma da 10 anni, una legge, il decreto legislativo 231 del 2001, che ha introdotto una forma di responsabilità amministrativa per le società, una forma di responsabilità penale, anche se la responsabilità penale in Italia è personale, quindi non si può dire che si avvicina al concetto di responsabilità oggettiva per una serie di reati commessi dai dipendenti nell'interesse della società, paga anche la società, questo è il principio. Quindi questo succede anche nel mondo reale, non solo nel mondo del calcio, dello sport in generale. Se un dipendente infedele commette un reato, la sua società ne paga le conseguenze. Se lo commette nell'interesse della società e soprattutto se la società non ha fatto nulla in qualche modo per impedire quel tipo di illecito. Quindi la società è sì responsabile, ed è questo un aspetto che forse andrebbe copiato, ma con tutte le cautele del caso. La società può, come dire, creare dei modelli organizzativi, può introdurre dei controlli, cioè ha delle armi per ridurre le proprie responsabilità e le eventuali sanzioni. Ecco, quello che non mi piace è la responsabilità oggettiva, della irresponsabilità oggettiva, come mi piace definirla, è questa sorta di automatismo per cui la società, anche se era oggettivamente nelle condizioni di non fare nulla, si trova a pagare per situazioni magari realizzatesi e concretizzatesi 2 o 3 anni prima e si vede compromessi quelli che sono i propri interessi, anche patrimoniali importanti, che come sappiamo. Sì, addirittura Marco, e poi cerchiamo di risistemare la qualità del collegamento audio, e poi allargo anche all'avvocato De Renzis. Abbiamo visto quest'estate sentenze con penalizzazioni o comunque con ammende per trascinamento, cioè società che ereditavano la posizione processuale in campo sportivo di giocatori semplicemente tesserati anche dopo l'epoca dei fatti e comunque in qualche modo venivano penalizzate. Avvocato De Renzis, possiamo mettere come primo punto che la responsabilità oggettiva non va cancellata? È una leggenda metropolitana che esista soltanto nel calcio e nello sport? L'osservazione che ha fatto il dottor Belinati è molto acuta, ma è molto acuta perché si sposa, non è acuta per questo, ma si sposa con quello che io sostengo da sempre, e cioè se noi rendiamo, poi lo affronteremo, il processo più garantista, noi dobbiamo inasprire le pene, ma a fronte di un processo completamente diverso. Inoltre, sempre per riallacciarmi a quanto è stato precedentemente detto, io credo che le società si debbano in futuro tutelare meglio riformando anche la struttura dei contratti, perché voi dovete considerare che il calcio ha delle appendici medievali, è l'unico sport con un professionismo esasperato che non ha contratti singoli. Cioè lei fa un contratto per, faccio un esempio, un pilota in MotoGP per una ditta, sono contratti magari da 50.000 euro con 50 pagine. Nel calcio si fanno contratti di 4 righe per 10 milioni di euro. Sì, allora, stiamo ancora ai moduli della Lega Calcio, esatto. Legate ai contratti collettivi. Sicuramente, le società si devono attrezzare in futuro e quindi tutelare e quindi difendere con contratti ad personam che possano quindi ricongiungersi all'idea anche della responsabilità oggettiva, perché le società hanno il diritto di proteggersi, ma lo devono fare nei modi giusti, e si possono fare rendendo processi più garantiti, pene più severe e adeguando anche i rapporti calciatore-società, che credo sono sotto gli occhi di tutti oramai strasuperati. Sì, non c'è dubbio. Non possiamo gestire una star come Messi, faccio un esempio, dico un nome a caso, con magari il 25esimo uomo della panchina e ricongiungerli in una stessa alvea contrattuale. Sì, peccato che il contratto collettivo sia appena stato rinnovato, come sanno tutti gli appassionati di calcio in Italia, perché è costato anche uno sciopero, comunque una serrata di una giornata, e mi sembra che di questo non ci sia traccia. C'è traccia di un automatismo sanzionatorio nei confronti del calciatore infedele, poi vedremo che anche questo ha delle distorsioni in realtà, però Gianluca Ferraris, mi sembra che il calcio, e su questo l'avvocato De Renzis ha ragione, non abbia ancora capito che ha cambiato pelle e si deve adeguare, ma non soltanto adeguando le sanzioni, adeguando anche il modo di potersi difendere e proteggere. Assolutamente, credo che sul punto che quello sportivo sia un sistema di regole ormai non più al passo coi tempi, e non mi riferisco solo alla giustizia, ma come ricordava l'avvocato, anche a tutto il resto della normativa, credo sia un punto sul quale possiamo convenire tutti. Va indubbiamente riformato, ma va riformato, anche in questo sono d'accordo con l'avvocato, potenziandolo. Non va cancellata, su questo sono d'accordo con te, la responsabilità oggettiva, proprio perché soltanto mantenendola ma caratterizzandola meglio si possono mettere in moto tutti quei meccanismi virtuosi che portano anche le società a vigilare meglio e a fare il possibile per ridurre il proprio carico di responsabilità. Marco Belinazzo, ma detto questo, poi la responsabilità oggettiva può restare una norma che eventualmente incide sull'aspetto sportivo sotto forma di penalizzazioni? Perché noi ad esempio settimana scorsa abbiamo letto tra le righe anche del comunicato del Napoli dopo la penalizzazione il concetto che il Napoli avrebbe accettato una sanzione pecuniaria anche importante, ma che non toccasse direttamente l'aspetto sportivo. Al di là della vicenda del Napoli, questa è una posizione comune a molti club che stanno chiedendo di riscrivere la norma della responsabilità oggettiva. Ho l'impressione che anche da questa strada si finisca per perdersi nel sentiero della mancata riforma, perché comunque soprattutto nei casi più gravi deve restare anche una ricaduta e una sorta di deterrenza sportiva. Marco? Beh, Giovanni, io penso che sia importante, proprio perché ci muoviamo all'interno di un ordinamento autonomo come quello sportivo, che ci siano non solo penalizzazioni pecuniarie, ammende o multe, ma anche appunto penalità che incidono in qualche modo sulla classifica e che danneggiano quella squadra che si è macchiata di gravi irregolarità. Detto questo, bisogna, a mio avviso, introdurre un principio di gradualità e anche di ragionevolezza nell'applicazione delle sanzioni. Nel caso Napoli, ma potrei citarne altri, c'è un fatto che è accaduto nel 2010, una serie di prove documentali che si sono formate nel corso di questa estate e sanzioni che arrivano a metà campionato e che determinano evidentemente degli squilibri sia per quanto riguarda la penalizzazione sportiva che la squalifica dei calciatori, ma lo stesso potrà accadere tra qualche settimana, immagino, con Lazio e Genova. Sì, ne abbiamo parlato prima con Gianluca Ferraris, abbiamo fatto il punto della situazione su tutti gli altri filoni, che cosa potrà accadere nei prossimi mesi, ed è evidente che è un problema che si riproporrà ancora, per cui ci vuole una graduazione, avvocato De Renzis. Però togliamoci dalla testa che questa graduazione possa essere soltanto pecuniaria amministrativa. Comunque il core business del calcio, dello sport in generale, resta poi il momento dell'agonismo, della sfida. Nei casi più gravi la deterrenza deve, io credo, entrare in quell'ambito. Guardi, io faccio una premessa simpatica, è la prima volta che sento personalmente il dottor De Renato, siccome sembra che se no ci siamo messi d'accordo. Lui, no, non vi siete messi d'accordo. No, sto scherzando. Lui ha evidenziato un punto che io ritengo fondamentale. Noi qui abbiamo una grandissima bugia, un grandissimo pretesto che mi è stato ripetuto per mesi, quasi per anni. La velocità del processo sportivo. Questo è una delle cose più inesatte che stranamente viene ripetuta. Cioè, qui di veloce ci sono soltanto le udienze, che sono praticamente quasi sommarie. Ma i processi sono tutt'altro che veloci, perché i fatti degli ultimi giorni ci testimoniano che società, giocatori, si vedono arrivare notizie di presunti illeciti o comunque fatti contestati. Per mesi rimangono con questa spada di Damocle sulla testa e quindi il processo non dura 48 ore perché l'udienza dura 48 ore. Un processo non è fatto solo di un'udienza, un processo ha tutto un percorso. Quindi la giustizia sportiva è tutto fuorché veloce. Sono veloci le udienze, che è un'altra cosa. Ed ecco perché io dico, poi se lei vorrà le posso dare qualche mio piccolo suggerimento. Ecco perché io dico, se l'ultimo processo, non facciamo casi specifici, se l'ultimo processo si fosse celebrato 10 giorni prima o 10 giorni dopo, non cambiava nulla, credo, nel corso della storia, ma forse in quei 10 giorni in itinere potevamo inserire qualcosina che lo rendeva più garantista. Quindi togliamo, sfatiamo, e qui mi riallaccio a quello che ha detto il dottor De Renato, sfatiamo questo falso mito che il processo sportivo è veloce. No? Della necessità perentorietà del processo veloce. Ci dobbiamo fermare, c'è un minuto di pubblicità, ripartiamo da qui. Tutto Sport definisce questa parte che ha toccato l'avvocato De Renzis lo standard probatorio del processo sportivo, dove non esiste il contraddittorio, e questo lo abbiamo chiaramente imparato anche quelli che non conoscevano, diciamo, questa particolarità. Lo abbiamo imparato dall'estate del 2006 con la vicenda Calciopoli fino alle ultime vicende del calcio scommesse. Lo standard probatorio, rendere cioè il processo sportivo qualcosa di più simile, io non dico una fotocopia, ma qualcosa di più simile a un qualsiasi processo penale o civile. Ci fermiamo, pubblicità, un minuto e torniamo. Tutti convocati. Allora, di nuovo insieme stiamo ragionando di giustizia sportiva, anche alle vicende, alla luce delle vicende delle ultime settimane, degli ultimi mesi. Gianluca Ferraris, collega di Panorama, Marco Belinazzo, Sole 24 Ore, l'avvocato Antonio De Renzis, che tutti conoscete come l'avvocato di Antonio Conte. Ci eravamo fermati sui tempi del processo, Gianluca, che per leggenda metropolitana devono essere brevi, veloci, per non intralciare poi la correttezza, l'andamento, la stessa partenza a volte dei campionati. Esatto, anche in questo caso però abbiamo assistito proprio quest'anno con la sentenza recentissima sul Napoli a una distonia notevole, perché La chiusura dell'indagine penale a Napoli sul tentato illecito sportivo che poi trasmette gli atti a Palazzi è del 30 maggio scorso. Da quel momento Palazzi ha a disposizione tutti gli atti, compie un'istruttoria minima perché non viene sentito neppure tutto lo spogliatoio della squadra dell'epoca e anche Mazzarri viene ascoltato brevemente, eppure c'è stato bisogno di quasi 7 mesi per arrivare a una condanna di primo grado. Quando invece, probabilmente accelerando un po' le cose, si poteva fare prima. Sì, io credo che poi, ma poi ne parleremo con l'avvocato Stagliano, che al posto di Palazzi c'è stato per degli anni, ci sia anche un problema di risorse, di forze da mettere in campo per la Procura federale. Avvocato De Renzis, diceva questa, intanto saluto Guido Vaciago, collega di Tutto Sport, che è su Tutto Sport il giornalista che ha scritto in 4 punti come la giustizia sportiva italiana potrebbe essere riformata. Ciao Guido, buon pomeriggio. Buongiorno, buon pomeriggio a tutti. Avvocato De Renzis, come si può intervenire su questa cosa che ho citato proprio Tutto Sport, viene interpretata come lo standard probatorio, cioè rendere il più possibile la giustizia sportiva vicina al rito ordinario? Allora, guardi, ritengo che tutte quante le riforme vadano fatte da chi agisce praticamente sul campo, perché spesso la teoria poi perde di vista la realtà. Allora io credo che se 2 o 3 avvocati, 2 o 3 magistrati si sedessero direbbero questo. Prendiamo l'esempio che è stato riportato dai suoi illustri colleghi, giustamente, dell'ultimo processo. Bene, siccome 10 giorni non avrebbero, cercherò di essere veloce, 10 giorni non avrebbero cambiato nulla, noi avremmo potuto, in quei 10 giorni che non cambiavano nulla, istituire una cosiddetta udienza con un organo terzo, perché ricordiamo che in questo processo noi abbiamo la follia che chi fa le indagini decide se tu vai a processo, è come se i carabinieri decidessero se io devo essere processato. Bene, quindi manca terzo, il primo filtro, che è quello del GUP, per intenderci, nel rito ordinario. Un organo terzo costituito da persone terze veramente, al quale si presentano le prove dell'accusa, sempre in quei 10 giorni che non cambia nel mondo, le prove dell'accusa, le prove della difesa, ed eventualmente si effettuano i confronti con gli eventuali collaboratori di giustizia. Inoltre, e anche questo è un aspetto, dottore, che forse non tutti sanno tra i nostri ascoltatori, c'è un'altra follia: tutte le audizioni non sono fonoregistrate. Qui non è questione di mezzi, perché un registratore digitale che si riproduce poi il mondo del calcio se lo può permettere, ecco, credo. 100 euro. Allora, lei comprende che specie quando ci sono dichiarazioni che in 5-6 volte chiamano ogni volta qualcuno diverso, ma è molto importante sentire come sono state fatte le domande, è molto importante sentire come è stata la spontaneità. Anche il tono della voce perché la trascrizione, fa differenza. La trascrizione, come nelle intercettazioni, la trascrizione non è sempre fedele. Allora, fonoregistrare le audizioni è alla base di qualunque processo garantista del mondo, che sia giustizia sportiva di qualunque genere. Ecco, io credo che questi, ad esempio, due piccoli accorgimenti, due strumenti, credo quasi a costo zero. Guido Vaciago, perché non si fanno? Perché, ad esempio, si continua a parlare della necessità di una riforma? Lo ha fatto anche Abete nei giorni scorsi, ma a bocce ferme. E io non so quando si fermeranno le bocce. Noi abbiamo fatto il punto con Gianluca Ferraris ad inizio puntata. Sono ancora talmente tanti filoni e i faldoni che devono arrivare a Palazzi che c'è il rischio di andare avanti per anni, non solo per mesi. Guido. Questo è vero, dire la verità, lo stesso Abete sulle nostre pagine e in precedenza Petrucci avevano fissato con la fine di quella che noi definiamo giornalisticamente scommessopoli, un punto dopo il quale sedersi intorno a un tavolo e pensare almeno in parte alla giustizia sportiva. Potrebbe essere quindi l'esaurimento, se mai avverrà, di questi filoni, e quindi io credo che, spero più che credo, che per la fine della stagione sportiva potrebbe essere fissato questo appuntamento, anche perché ci saranno praticamente quasi tutti gli organi politici rinnovati, avremo un nuovo presidente del CONI, avremo un nuovo presidente anche della federazione, forse della Lega, quindi, forse. Sì, a questo punto quello si spera, quindi potrebbe esserci una congiuntura astrale che Maya permettendo sì. ci, ci, permette di fare il punto, e potrebbe essere una buona occasione. Io non credo che la giustizia sia da radere al suolo, ma che ci siano alcune cose da rivedere, sì. Alcuni puntelli certamente da mettere. Marco Belinazzo, parliamo di omessa denuncia, cerchiamo di capire ad esempio questa specie di mostro giuridico che esiste, io credo anche correttamente, nell'ordinamento sportivo, se esiste anche al di fuori dell'ordinamento sportivo, se in qualche modo possiamo copiare qualcosa, perché ad esempio in tanti si sono chiesti in questi mesi perché qualcuno sì e qualcuno no, pure nelle stesse posizioni, pure con gli stessi ruoli, pure magari all'interno degli stessi spogliatoi in cui si raccontavano delle vicende, ci sono, lo scrive Tutto Sport, non per citare continuamente Guido Vaciago, illustri personaggi del mondo del calcio, ad esempio Cesare Prandelli, che raccontano chissà quante volte hanno fatto finta di non sentire accordi, mezzi accordi, anche senza necessariamente il passaggio di denaro. Che cosa mi dici sull'omessa denuncia? Guarda, l'omessa denuncia copre quell'area di operatività dei pubblici ufficiali, appunto dei carabinieri, della Guardia di Finanza, in generale di chi ha doveri pubblici, di ordine pubblico, ma non solo. Applicarla in un sistema come quello sportivo, dove c'è chi è tesserato e quindi avrebbe ed ha degli obblighi morali e di lealtà sportiva, può anche esserci nel momento in cui appunto si richiede una fedeltà all'ordinamento sportivo e alla propria squadra. Detto questo, cioè, si fa richiamo all'etica, che nel mondo del calcio, dello sport, è un valore che va preservato. Io credo l'articolo 1 esatto, dell'ordinamento sportivo parla appunto di realtà, di probità sportiva, concetti che sembrano quasi fuori tornare, ma che dovrebbero esserci, devono esserci nel mondo sportivo. Detto questo, poi il problema è andare a vedere concretamente come si sono svolti i fatti, perché in alcuni casi, come nel caso Napoli per esempio, c'è un discorso che non si capisce bene se viene fatto seriamente, in maniera scherzosa, e tante volte appunto un giocatore, può essere un compagno di squadra, può far finta di nulla anche per una sorta, come dire, di solidarietà con quella che può essere la condizione di chi magari propone perché è disperato una mezza cosa, oppure lo fa scherzando, no? Quindi bisognerebbe poi andare a investigare concretamente come si sono svolti i fatti, e l'attuale modello di funzionamento della giustizia sportiva non permette questo tipo di approfondimento. Torniamo alla mancanza di contraddittorio, torniamo alla mancanza di confronto anche con chi poi queste cose le racconta e le denunce, cioè non si può fare soltanto la fotocopia degli atti di una procura, che sono atti ufficiali ed importanti, se poi manca anche il filtro e la capacità di lettura anche a livello sportivo, che significa inserire anche queste sfumature, perché poi da questo punto di vista il processo è sportivo ed è magari slegato nel bene o nel male da alcuni punti applicativi del rito ordinario, cioè per intenderci, il non poteva non sapere, che già a livello di giustizia penale ha fatto discutere e non poco, applicata ad altri casi che tutti conosciamo negli ultimi decenni, io ho l'impressione che nel mondo del calcio, avvocato De Renzis, sia ancora più una zona grigia difficile. Poi però dico la mia sul fatto che il mondo del calcio è avvolto da un muro di omertà inaccettabile, avvocato. Guardi, io sono perfettamente d'accordo sul concetto che lei ha detto del non poteva non sapere. Dico anche, e mi riallaccio a prima, dico anche sul fatto che noi dobbiamo imporre che noi non dobbiamo più aspettare che il codice venga riformato, bisogna che gli organi di informazione facciano una campagna per velocizzare, e vi dico perché, mi permetto di dire la mia opinione. È incomprensibile, le sentenze, le decisioni risultano, lo leggo sugli organi di informazione, incomprensibili a tutti i tesserati, incomprensibili spesso purtroppo a noi avvocati, incomprensibili a voi giornalisti esperti. Difficili da spiegare. Perché ogni grado risulta incomprensibile dal deferimento al TANAS, super incomprensibile all'opinione pubblica. Allora, se è comprensibile a 10 persone del territorio italiano e non lo è a milioni di persone, bisogna farsi delle domande, darsi velocemente delle risposte e imporre che questo venga riformato velocemente, perché Non si può più andare avanti con questo sistema di giustizia che svilisce tutti, nel bene e nel male, accusa e difesa. Non è pro domo nostra, è pro domo di tutti, pro domo di tutti. Per quanto riguarda l'omessa denuncia, questo è un codice vetusto creato, pensato, istituito quando il calcio era tutta un'altra cosa. Quindi, sì, quando si andava in Serie B per una telefonata, sono altri tempi, non necessariamente migliori, era semplicemente un mondo diverso. Assolutamente, sono perfettamente d'accordo con quanto è stato detto precedentemente dal suo collega, cioè che bisogna sviscerare caso per caso su come queste notizie sono state dette, in che contesto, come sono arrivate, perché una cosa viene detta in pizzeria ridendo, una cosa viene detta all'interno degli spogliatoi, sono tutte situazioni diverse. Ecco perché da dove si deve partire? Da un processo garantista, poi per me possono mettere omessa denuncia 2 anni, non mi interessa, a me interessa il percorso. E ricordiamoci, permettetemi l'ultima chiosa, ricordiamoci che se uno si incatena, come è successo quest'estate, perché non comprende le cose. E noi dobbiamo fare in modo che la giustizia si faccia seguire e non si imponga, concetto che purtroppo fino adesso ho recitato al vento, ma è fondamentale. Assolutamente. E con questo poi andiamo al traffico. Io però lo voglio dire chiaramente, e lo facciamo dire a Gianluca Ferraris, che conosce bene i magistrati, che ha letto quelle carte, sa anche della difficoltà di entrare nel mondo del calcio. Esiste un livello di omertà inaccettabile, Gianluca. Sono d'accordo, questo è quello che hanno messo in evidenza anche i magistrati sin dal primo momento, non a caso evocando l'ipotesi associativa, cioè l'associazione a delinquere, proprio per tracciare un parallelo tra questo mondo e quello mafioso. Non è soltanto la quantità di soldi che si muove, ma è anche il livello di omertà che caratterizza questo mondo. E questa è una cosa su cui il mondo del calcio deve, credo, fare una riflessione importante insieme alla riforma del sistema della giustizia sportiva. Allora io saluto e ringrazio Marco Bellinazzo, grazie Marco. Presto. E saluto l'avvocato De Renzis, grazie avvocato per essere stato con noi. Grazie a voi, saluto tutti gli ascoltatori. Grazie avvocato, tengo ancora convocato qualche minuto invece Guido Vaciago. Allora noi ci fermiamo e poi affrontiamo l'ultima parte di questo nostro discorso. Traffico. Tutti convocati. Siamo arrivati quasi in fondo a questo nostro viaggio nella giustizia sportiva. Sono ancora con Gianluca Ferraris di Panorama, c'è Guido Vaciago di Tutto Sport e c'è Mario Stagliano, avvocato della Federcalcio, che per anni è stato nell'ufficio della Procura Federale. Buon pomeriggio, avvocato. Buon pomeriggio a voi. Vogliamo affrontare l'ultima parte di questo nostro viaggio in quello che può essere riformato della giustizia sportiva, anche alla luce delle vicende degli ultimi mesi, degli ultimi anni vorrei dire, però soprattutto dell'attualità degli ultimi giorni. Noi abbiamo cominciato questo nostro viaggio con Gianluca Ferraris raccontando che cosa potrebbe accadere nei prossimi mesi e io credo mettendo anche in evidenza la difficoltà della giustizia sportiva a raccogliere le prove, ad approvvigionarsi, ad avere un calendario che sia coerente, che sia veloce, che non rischi di cadere magari nella disparità di trattamento tra un club e l'altro. E ci sono anche accuse che abbiamo letto negli ultimi giorni dopo la sentenza del Napoli. Lei che è stato in quell'ufficio, vogliamo dire che ci sono anche problemi forse di risorse, perché Palazzi è abbastanza da solo, almeno come figura di riferimento ovviamente, non come ufficio che fa le indagini, ed essendo da solo non è sempre semplice riuscire a mettere insieme un calendario che sia coerente. Allora, sicuramente le difficoltà dell'organo inquirente che oggi si è unito con l'organo requirente sono datate nel tempo, per cui non c'è dubbio che le risorse anche sotto il profilo economico sono particolarmente ristrette. A questo poi dobbiamo aggiungere il fatto che sostanzialmente negli ultimi anni si è andati molto a rimorchio della giustizia ordinaria, per cui nel momento in cui partivano indagini da parte delle varie procure era solo nel momento in cui poi venivano conferiti gli atti all'epoca all'ufficio indagini, oggi alla Procura Federale, che si poteva in qualche modo compiere poi l'indagine sportiva. Questo però secondo me non giustifica comunque, pur con tutte questa, con questa premessa doverosa e questa giustificazione assolutamente dovuta, questo non giustifica secondo me delle lungaggini che da qualche anno a questa parte indubbiamente lasciano essere fatti. Il caso dell'ultimo giorno è chiaramente il caso che riguarda il Napoli. Ora, se è vero come è vero che a maggio la procura ordinaria di Napoli aveva chiuso le indagini nei confronti di Gianello e aveva trasmesso gli atti, tra l'altro ho sentito dire che si trattasse di una cinquantina di pagine e non di più, alla procura federale, beh, io non vedo perché ad esempio il procedimento nei confronti del Napoli non sia stato fatto insieme a tutti gli altri processi sportivi che si sono celebrati quest'estate, che già erano stati divisi in due tronconi. Quindi c'è un problema di efficienza all'interno oggi della Procura federale? No, non è un problema, per carità, tutta gente che conosco. No, glielo chiedo perché lei ha espresso un giudizio e quindi è giusto che lo chiarisca. No, io non capisco francamente certe lungaggini, no. Discorso di efficienza sicuramente no. Probabilmente quel limite ultimo che esisteva qualche anno fa, fino a quando io sono stato in ufficio indagini, andrebbe ripristinato. Cioè oggi andare a sanzionare una gara del 2009 indubbiamente ha poco senso, anche perché andremo a sanzionare molto, quasi sempre delle società diverse rispetto a quelle che esistevano quando venne commesso il reato sportivo, reato chiaramente tra virgolette. Noi una volta avevamo un margine ultimo, e cioè le indagini dovevano comunque il procedimento doveva comunque ultimarsi entro la fine della stagione successiva rispetto a quello in cui si era celebrato. Questo comporterebbe sicuramente il fatto che molte delle cose, dei procedimenti che si sono celebrati negli ultimi anni non si sarebbero mai celebrati, e lasciando così impuniti dei fatti che odiano alla coscienza sportiva. Però ripeto, un procedimento che interviene 2 anni dopo, io trovo che abbia scarso senso. Sì, ha sicuramente avvocato dei profili di ingiustizia, però Guido Vacciago, ho l'impressione che sia un sentiero stretto, perché noi ci siamo lamentati, poi ciascuno schierandosi sulla sua parte, ad esempio sul concetto di prescrizione applicato ai fatti di Calciopoli, siccome io ho l'impressione che sempre più soprattutto il mondo del calcio dovrà fare i conti con inchieste ereditate dalle inchieste che vengono dalla magistratura ordinaria, io penso che alla fine applicare il termine come accadeva qualche anno fa rischia di essere un colpo di spugna su molte di queste inchieste dal punto di vista sportivo. Sì, a meno che mi sento di interpretare il pensiero dell'avvocato australiano, che tra l'altro saluto, questo limite non dia un po' una sveglia, magari permetta di velocizzare determinate lungaggini che ai nostri occhi sono abbastanza ingiustificabili. L'esempio del Napoli è una di queste, cioè non è detto che porre il limite voglia dire per forza superarlo, magari porre il limite vuol dire evitare di prendersela comoda su certe situazioni. E poi ovvio che nella riforma della giustizia bisogna anche ripensare anche al potere, nel senso proprio al potenziamento degli organi inquirenti, perché se in questo momento le procure d'Italia, quelle procure della Repubblica, non quelle sportive, continuano a sfornare indagini in ambito sportivo, in qualche modo ci dovrà essere qualcuno che le legge e se le va a prendere, e dall'altra parte sì, ci e le trasforma. Evidentemente c'è un problema che forse qualche anno fa era inferiore, quindi probabilmente anche ripensare al potenziamento della giustizia sportiva potrebbe essere un aspetto. Però non stiamo parlando, avvocato Stagliano, ad esempio, di tornare a ridurre i termini di prescrizione che sono stati allungati dopo altre vicende negli anni scorsi. Io sto parlando di abbreviare i termini di decadenza dell'azione punitiva dalla parte della Procura federale. Abbiamo visto negli ultimi tempi, e poi la federazione è intervenuta un mese fa per porre un freno drastico, sanzioni che sono state combinate perché qualcuno viaggiando su un pullman aveva esposto uno striscione, aveva fatto un coro 1 anno e mezzo dopo. Ora, di dichiarazioni rese alla stampa che sono state punite due campionati dopo. Veramente non ha senso, tant'è vero che la federazione è intervenuta recentemente dicendo: nel momento in cui ci sono delle dichiarazioni lesive, la violazione dell'articolo 5 del codice di giustizia sportiva, entro 15 giorni il procuratore federale o deferisce o archivia, dopodiché è chiuso il discorso. Ma deve necessariamente essere chiuso, perché è veramente incredibile. Sì, però avvocato, lei mi sta facendo il caso di uno sfogo di un presidente nei confronti di un arbitro che, voglio dire, può portare a un deferimento per dichiarazioni lesive. Io credo sia, ne parlo con Gianluca Ferraris, un po' più complesso, ad esempio, entrare in meccanismi di inchieste, ci spiegava prima, con aperte rogatorie internazionali da Singapore, dall'Austria, dai paesi dell'est asiatico, dove magari fra sei mesi scopriremo conti segreti o cifrati. Adesso io sto ragionando per ipotesi che magari interessano altri protagonisti del nostro campionato. Pensare di chiuderlo entro sei mesi, io credo sia fantascienza. Gianluca e poi l'avvocato Stagliano. Intanto non parlo di sei mesi, ma parlo di un anno. Di un anno, certo. Intero, oltre a. Dopodiché c'è sempre la possibilità di ricorrere alla revocatoria. Cioè io, sì. Io vorrei ricordare che quando per una gara Potenza Salernitana il procedimento sportivo si concluse con una sanzione di 3 punti per responsabilità presunta a carico del Potenza e l'assoluzione della Salernitana, e poi emersero delle carte che venivano dalla procura di Potenza, venne ammesso il procedimento di revocazione e entrambe le società vennero successivamente sanzionate, ma nell'immediatezza. Noi stiamo leggendo di partite del 2009, mi sto riferendo al Bari, ogni settimana vanno in campo giocatori in Serie A, abbiamo letto sui giornali che addirittura si sarebbero divisi su una panchina all'interno dello spogliatoio una certa somma di denaro. Allora, gli atti dalla procura di Bari sono stati acquisiti? Io ritengo di sì, e se non sono acquisiti deve essere fatto il procedimento sportivo. Quindi anche come è giustificabile che si aspetti? Come è giustificabile che molti degli arrestati del 28 maggio di quest'anno sono già stati giudicati in via definitiva, stanno al TNAS, e qualche un altro deve ancora andare a dibattimento? Ed è il caso di Stefano Mauri, di cui parlavamo anche prima, Gianluca, però poi c'è la complessità, non è semplicissimo mettere. Io non so nemmeno come i magistrati delle varie procure vedano anche queste esigenze tempistiche della giustizia sportiva. Ho l'impressione che ci sia un conflitto. Assolutamente, abbiamo assistito a casi in cui le due magistrature si sono pestate i piedi più volte. Non credo che sia un caso se la richiesta di tempi certi per la giustizia sportiva, in modo da cristallizzare quell'iter giudiziario, sia venuta a più riprese e magari a volte anche con toni non felici proprio dalla magistratura ordinaria. Si tratta in questo caso anche di cercare di mettere in sicurezza le indagini penali. Abbiamo avuto più proposte che sono arrivate, appunto, alcune non molto felici, come quando Manganelli e Di Martino parlarono apertamente di amnistia. O quando Salvini, giudice per indagini preliminari di Cremona, si spinse a chiedere un maxi processo per il calcio. Si obiettò da questa parte che probabilmente istruire un maxi processo relativo a tutti questi fascicoli sarebbe stato complicato e sarebbe sfociato in un caos dal punto di vista delle sentenze. Ora, a posteriori, vedendo quello che è successo con i singoli faldoni, non credo che il caos sia stato minore. Sì, non c'è dubbio. Noi siamo in chiusura, abbiamo provato a dare il nostro contributo cercando di spiegarvi tecnicamente che cosa sta succedendo e che cosa potrebbe succedere nei prossimi mesi, come si può migliorare questa macchina della giustizia sportiva. Io ringrazio intanto l'avvocato Stagliano, grazie avvocato. Grazie a voi e tanti auguri a voi e a tutti gli ascoltatori. Auguri anche a lei, auguri anche a Guido Vaciago di Tutto Sport. Ciao Guido. Auguri a tutti e vi ringrazio. E cercheremo di tornarci su nelle prossime settimane, nei prossimi mesi. Grazie anche a Gianluca Ferraris di Panorama. Grazie a voi e tanti auguri. Noi ci fermiamo qui. Tutti convocati torna domani pomeriggio, sempre alle 14. Io ringrazio Franco Piantanide in redazione, Filippo Aureggi in regia. Un saluto anche da Giovanni Capuano. Appuntamento domani alle ore 14.